Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Tutti a scuola! Così si chiama rock la sigla. Così si chiama rock. Sai che noi abbiamo una DJ contentissima di questa sigla, questa base veramente bella. Non osi neanche chiamarla sigla. Ah no, la musica. Quella prima. Sai, Maria Piraceci, che noi abbiamo una DJ, DJ Lookett, te la voglio presentare. DJ Lookett, la conosco. Eccola là, è lei che fa le scelte musicali. Senti che rock. Bravissima. Vabbè, cara Maria Piraceci, guarda, ti do questa pagina di Libero, è uscito un volume, Come non perdere la calma. Tieni, leggi. Guarda, volentieri. Come genitore, come giornalista, come tutto. Tua co-conduttrice. Oggi è una giornata mondiale, tu adori le giornate mondiali. No, mi fanno schifo le giornate mondiali. No, perché sembra quasi che bisogna parlare di un argomento solo quel giorno. Invece, se c'è la giornata mondiale di qualcosa, vuol dire che l'argomento è importante, bisogna parlarne tutti i giorni. Ma contraddicendoci, perché a noi ci piace, siamo persone che amano le contraddizioni, oggi è la giornata mondiale dell'insegnante e quindi ne parliamo. Ne parliamo, ti ho costretta a farlo perché voglio così citare due insegnanti particolari di cui si è parlato molto di recente, quindi insomma è giusto farlo proprio oggi. Allora, il primo l'ho conosciuto l'anno scorso a Milano mentre passeggiava con i suoi ragazzi con una mucca. Si chiama Carlo Mazzone, docente di informatica all'Istituto Tecnico Lucarelli di Benevento ed è il primo insegnante italiano ad essere stato selezionato fra i primi 10 finalisti, quindi insomma poi la finale c'è il 3 di dicembre, al Global Teacher Prize, viene chiamato il famoso Nobel per gli insegnanti. E perché passeggiava con una mucca a Milano? Passeggiava con una mucca perché fra le tante cose belle che lui fa con i suoi ragazzi ha partecipato l'anno scorso, dove l'ho conosciuto io, alla finale nazionale del concorso di Junior Achievement. Junior Achievement è una società che manda nelle scuole professionisti e insegna ai ragazzi a creare startup, a creare delle imprese eccetera, e Mazzone proprio questo fa nella sua scuola. Con i suoi ragazzi aveva inventato il Farm Animal Trade, che è il primo portale di compravendita di animali da allevamento, d'acqua la mucca che si era portata. Pensa che ha anche ottenuto la sponsorizzazione col Diretti, quindi questa azienda è diventata un'azienda, questa startup è diventata un'impresa vera. La settimana scorsa l'annuncio, l'abbiamo dunque chiamato, gli abbiamo chiesto cosa pensa di fare con il milione di euro qualora il 3 dicembre dovesse vincere il primo premio. Speriamo di non portargli sfortuna. Vai. Quello che mi piacerebbe fare è di dare un contributo alla creazione di start-up e all'imprenditorialità nel contesto sociale, particolarmente quello che mi è più vicino, perché dando gli strumenti affinché i ragazzi si possano auto-organizzare e imporsi nelle scelte di vita, scegliendo la possibilità di poter stare nei propri territori, è la cosa che mi piacerebbe di più. Quindi punterei su questo, sul fatto di dare gli strumenti ai ragazzi perché possano rimanere nei propri territori e perché la scelta sia effettivamente una scelta di andare fuori dal proprio territorio e non costretti da necessità lavorative. Ecco, questo insomma è un problema molto sentito. Ci spostiamo a Lecce, l'altro professore che vogliamo citare è Daniele Manni, anche lui finalista al Global Teacher Prize qualche anno fa, ma adesso è stato premiato qualche giorno fa anche lui in un concorso invece europeo per docenti di innovazione e autoimprenditorialità, quindi siamo nello stesso diciamo settore. E questo è un docente di informatica e imprenditorialità presso l'Istituto Galileo Costa Scarambone di Lecce, quindi volevo ricordare questi due. Allora, noi ovviamente siamo tutti preoccupati, anche da genitori, per il numero di scuole che hanno dei casi di positività di coronavirus. C'è uno studente di economia a Torino che, insieme a un dottorato di ricerca che sta in Canada, raccoglie, analizza tutti questi casi di positività in un database interessante. Lorenzo Ruffino, buongiorno. Grazie di essere qui. Insieme a Vittorio Nicoletta avete messo a punto questo database. Partiamo dai dati. Ci dà quelli proprio aggiornati magari a stamattina, se ce la fa? Sì, sono aggiornati ad adesso. Abbiamo 1175 scuole con almeno un caso. Sì. E un totale di 1498 persone coinvolte, quindi persone positive. 1175 scuole. Quante sono le scuole in Italia? Io non lo so come circa 65.000. Di cui 50.000 statali, le altre paritarie o private. Avete anche un'idea di contagi, se sono più, vabbè, chiaramente gli insegnanti numericamente sono molti meno degli studenti, quindi è evidente, però insomma, avete anche considerato questo elemento, cioè quanti sono gli insegnanti, quanti sono i ragazzi? Circa l'80% sono studenti, un 10% sono docenti, poi c'è un il resto sono o altre persone che lavorano nelle scuole, tipo il personale amministrativo, i bidelli, e poi c'è una percentuale di persone che non conosciamo chi c'è. Non sappiamo che c'è un caso, ma non sappiamo chi è, perché a volte i giornali non sono così precisi nel riportare i dati. E invece avete un'idea se siano di più nelle scuole superiori, nelle scuole medie, nelle scuole primarie? Questo anche perché, Alessandro, come sai, c'è un piano B, no? Il piano B, sì. Ecco, quindi poi ne parliamo. Quindi è interessante capire dove sono maggiormente i focolai, cioè in che grado di scuola. Abbiamo circa un terzo di tutti i casi sono nelle superiori, poi abbiamo le primarie con circa il 20%, poi l'infanzia e poi le medie. Comunque le superiori sono il principale posto dove ci sono casi. Bisogna comunque precisare che non tutti i 1175 sono focolai. Nella maggior parte delle volte abbiamo casi sporadici, cioè senza, non si trovano altri casi, però ci sono situazioni, circa 106, in cui sono nati dei focolai, quindi il contact tracing ha trovato almeno un altro positivo legato a quello. Ok, e quindi in quei casi hanno probabilmente, avete un'analisi anche su quante classi sono state chiuse, quante scuole sono state chiuse per questi casi riscontrati? In linea di massimo, ogni volta che viene trovato un caso si mette in isolamento la classe e i docenti, quasi sempre. Sì, non è automatico, no? Non è automatico. No, dipende un po' dalle regioni o dalle ASL di competenza, ci sono politiche diverse. Comunque, e poi ci sono circa 160 volte è stata chiusa la scuola intera, magari per pochi giorni o magari per anche una o due settimane. Sì, ecco. Devo dire che 1175 scuole su 65.000 percentualmente, ma mi corregge se sbaglio, è meno del 2%, no? Sì, Lazzolina in questi giorni ha parlato di 0 virgola, un po' più di 0 virgola, no, però è 1,80%, ecco, però in effetti siamo ancora a numeri probabilmente gestibili. Il problema dei presidi, Alessandro, è capire se questo è un trend, anche perché la scuola non è cominciata neanche da un mese, è cominciata da pochissimo in molte regioni. In realtà ricordiamo il 24 dicembre c'è stato uno scaglionamento. Sì, poi ricordiamo che molti studenti vanno un po' in presenza, un po' stanno a casa, questo almeno per il, sì, per infatti, il liceo. Infatti, lo citavo superiori. Prima, si diceva molto di questo piano B. Oggi c'è un incontro al Ministero dell'Istruzione, cioè fra Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Vogliono proprio fare il punto per capire come procedere. I dati validi saranno quelli fra circa 15 giorni, quindi diciamo è un primo giro di punti di vista. Però l'ipotesi che si vada verso un ulteriore restringimento delle lezioni in presenza alle scuole superiori è un piano che esiste, sì. Soprattutto in alcune regioni vorrebbero tenere a casa maggiormente i ragazzi delle scuole secondarie, perché loro ovviamente un po' perché non creano problemi in famiglia, possono stare a casa da soli dopo i 14 anni. Voi Ruffino siete, voi come dire, da analisti raccogliete i dati, siete stupiti, pensavate di più, di meno, oppure il vostro lavoro si ferma solo a un dato statistico? Quando abbiamo iniziato nei primi giorni non ci aspettavamo, non sapevamo bene cosa aspettarci. Le scuole comunque non sono poche, ci aspettavamo un po' meno, però in linea massima Difficile anche fare previsioni. Comunque bisogna anche considerare che questi numeri sottostimano la reale situazione. Sì, ma avete visto se in questo mese c'è un trend di crescita dall'inizio? Sì, c'è un trend di crescita abbastanza evidente. Abbastanza che evidente. Però era, diciamo, un rischio calcolato, sì, si sapeva, no? Quando quindi voglio dire, se noi ci sentiamo tra 20 giorni, magari queste 1175 scuole saranno diventate 2000, non lo so se ma c'è sicuramente un è realistico. È realistico. Va bene, Lorenzo Ruffino, noi la ringraziamo, è molto interessante questo, ma un'ultima cosa, ma questo database come l'avete messo insieme? È stato complicato? Chi vi dà i dati? Chi vi dà i dati? Usiamo principalmente notizie pubblicate sui giornali online, quindi facciamo molte ricerche con Google. E poi ci arrivano da ormai un po' di tempo segnalazioni di persone che magari ci fanno vedere, cioè ci mandano il link al sito della scuola che riporta qualcosa, o la lettera in cui della ATS, dell'ASL locale, che mette in quarantena la classe. Perché tutto questo è visibile pubblicamente, cioè avete o un sito o un modo... È pubblicato su un file su Google Docs, è accessibile a chiunque, si possono scaricare, fare quello che si vuole. Sono fatti per essere usati. Quindi come si trovano? Cioè, se io sono un ascoltatore in questo momento, li volessi trovare in un minuto, cosa digito? Non è così facile, comunque è solo semplice andare sul mio profilo Twitter e c'è il link. Sul profilo Twitter, perfetto. Adesso sul profilo Twitter com'è il profilo? Lorenzo Ruffino? Lorenzo Ruffino. Andate su Twitter, se avete Twitter, andate sul profilo di Lorenzo Ruffino, è studente di economia, e trovate il link per scaricare. Ale, volevo solo dirti che i presidi sono un po' in difficoltà in questo periodo, perché in realtà lo si accennava prima, non tutte le ASL si regolano allo stesso modo. In effetti a me arrivano tantissime segnalazioni di genitori soprattutto, e dicono: è arrivata la segnalazione di uno studente, una persona contagiata, ma ancora non sappiamo se dobbiamo mandare i nostri figli a scuola, non è arrivata nessuna comunicazione, perché spesso i presidi rimangono col cerino in mano. Chiuse le ASL a un certo punto nel pomeriggio, non sanno chi avvisare. La prima puntata, quando avevamo Giannelli, che gli ho fatto la domanda: scusi, ma lei alle 9 e 8 minuti sa di un caso, cosa fa alle 9 e 9 minuti? E lui tre volte mette: chiamo l'ASL. Ma è ovvio, cioè adesso tu mi stai dicendo una cosa che era ovvia, in un sistema che è perfetto non c'è problema. E invece poi e tu hai detto le 9:08, tu immaginati alle 21:08 esatto, di sera, o il sabato o la domenica, dai, voglio dire, perché un conto è l'utopia e poi viviamo in un paese dove sappiamo che la quotidianità ti fa scontrare con altro, no? Sì, purtroppo sì, quindi chiedono al Ministero dell'Istruzione un protocollo un po' più preciso, al di là delle intenzioni. Si chiama l'ASL, sì, ho capito, ma se chiamo l'ASL dicono i presidi e non mi risponde nessuno. Domenica alle 13 stanno mangiando la parmigiana, sì, giusto. Va bene, Maria Piera, ci sentiamo. Stanno lavorando tanto, certo. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ciao Alessandro. Ci vediamo lunedì prossimo.